Ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata della Fuga del Gatto con le gatte sul tetto. Sul tetto, sì, che d'ottobre. Ancora, ancora un po' scotta, non tanto. Abbiamo visto tetti peggiori. Esatto. Sì, e oggi è domenica 29 ottobre e per iniziare subito vi do i contatti del Wombat, in particolare il sito wombat.noblogs.org e la casella di posta Wombat in Siberia.net. Le cose solite, insomma, niente di più, niente di meno. E oggi parliamo di un tema un po' particolare per i nostri standard, perché dobbiamo lanciare il guanto della sfida. No, in realtà è una trasmissione che dedichiamo un po' al collettivo Nuovi Rumori e a tutti gli appassionati dell'hardcore e della velocità e delle cose ritmiche. Però è anche un po' un guanto della sfida, perché basta discriminare noi poveri amanti della musica classica, che facciamo tutte cose un po' così, noi frufru, povere gatte da pianoforte, infatti, che facciamo le cose frufru sorseggiando il tè, poverie, bla bla bla. No, che, noi, cioè, che è vero, però, è tutto vero, è però tutto vero. In realtà, come tutte le anime candide, nascondiamo appunto una struttura impetuosa. Impetuosa, direi. Grazie, mi ha salvato. Sì, impetuosa. Non sapevo dove andare, sì, a parlare. Poi si andava su cose un po' più. Vabbè, sì. E no, e quindi animo impetuoso, perché oggi parliamo della velocità. Quanto della sfida, sfidiamo i nuovi rumori a fare altrettanto, perché in effetti nella musica classica ci sono dei pezzi che noi andremo ad ascoltarci. Ovviamente sono solo alcuni esempi, ma potremo parlarne un po' all'infinito. Esempi di brani velocissimi, virtuosissimi, ma non ci interessava tanto il virtuosismo quanto proprio la velocità. Chiaramente, poi lo vedremo, tutto ciò è legato alla velocità di esecuzione, allo strumento con cui si deve eseguire questa cosa. Insomma, ce n'è diverse, ogni brano ha un po' la sua particolarità. E così, giusto per al volo inquadrare la questione, perché velocità è anche qualcosa di abbastanza relativo, è un concetto che non è che da solo basta. Innanzitutto, nella musica classica, molto spesso, più che velocità intesa in termini tecnico, così, si danno delle indicazioni di massima, delle indicazioni dell'andamento del brano. Il compositore scrive nella partitura come deve essere eseguito il pezzo, non proprio con che velocità, perché chiaramente pensiamo che non c'erano le registrazioni, insomma, non, o almeno in buona parte. Soprattutto che dipende molto da chi poi l'eseguisce, perché si sa che il compositore scrive in un modo, ma poi chiaramente il direttore d'orchestra o insomma, altre figure poi lo interpretano anche un po' a loro modo. Vedremo anche che i pezzi cambiano molto a seconda di chi li eseguisce, di quale orchestra, di quale direttore, che poi riarrangiano sempre. Sì, esatto, ma infatti poi vedremo che alcuni pezzi particolarmente particolarmente veloci cambia molto a seconda dell'esecutore, e c'è esecutori che li eseguono in pochissimo tempo e battono dei record addirittura, e altri che invece si attestano su delle velocità un po' più normali. Generalmente però, appunto, si parla di andamento nella musica classica. Ci sono, fra l'altro, sono scritti quasi tutti in italiano, come penso saprete, rapido, veloce, allegretto, cioè i tempi veloci più o meno, ve li leggo, sono rapido, veloce, allegretto, piuttosto veloce o moderatamente veloce, ovvero allegro, moderato, allegro o allegramente, vivace, vivo, vivacissimo, allegrissimo, presto e prestissimo. E vivone. Vivone. C'è anche vivone. E vivo e viva. Ognuna di queste c'ha un po' una definizione che è abbastanza inutile per noi italiani, perché insomma descrivere che cos'è allegro è un po' senza senso. Però se me lo legge un inglese, allegro, già è lì bisogna un po' spiegargliela. Esatto. Alive. Happy. Alive. Esatto. E però per almeno alcune di queste indicazioni di tempo possiamo dare dei riferimenti in BPM. Il BPM si intende ovviamente i battiti per minuto, quindi ci dà un po' un'indicazione di cosa si intende, perché sennò rimane tutto un po' aleatorio. Ad esempio, l'allegretto siamo sui 98, tra i 98 e i 109 BPM. L'allegro moderato tra i 112 e i 124 BPM. non sono tutti in ordine, eh? Cioè ad esempio l'allegro che sarebbe teoricamente più veloce dell'allegro moderato, in realtà è tra gli 84 e i 168 bpm, quindi di partenza anche un po' più basso, cioè più lento dell'allegro moderato, insomma così via. È un po' difficile barcamenarsi. Arriviamo però al prestissimo, che è, ha un valore maggiore dei 177 bpm. Poi, insomma, numeroni, nel mezzo, comunque. Esatto, nel mezzo ce ne sono un po' altri, ma insomma, direi il numero maggiore rimane questo. Avviso agli ascoltatori, chiaramente, come sempre, va contestualizzato tutto. Cioè, noi, il nostro orecchio da contemporanei, moderni, diceva. Vabbè, e ci porta a stabilire dei parametri di velocità basati sulla musica chiaramente del Novecento, quindi la musica sì, elettronica, la musica pop, la musica fatta con strumenti appunto elettronici ed elettrici, ma dovete considerare appunto sempre i periodi di, insomma, relativi a insomma, ai decenni e la centinaia d'anni della musica classica. Quindi dovete pensare che per un ascoltatore del 1700 veloce non aveva la stessa qualifica di quello che per noi è veloce, no? È chiaro, no? Ognuno vive il suo tempo e quindi è diverso anche il parametro. Noi intendiamo veloce una cosa e una persona dell'Ottocento ne intendeva un'altra, una persona sì, del 600 ancora un'altra, eccetera eccetera. Tra l'altro anche i decibel erano completamente diversi e qui potremmo aprire un altro mondo, tant'è che quando andiamo ad ascoltare un concerto di musica classica il nostro orecchio rimane all'inizio un po' sturbato, ci perché sembra tutto basso, bassissimo, a parte Wagner che bisogna sì. Però infatti lui ci lavorava parecchio su questa cosa qui. Non accade, ma questa è un'altra storia, lo so, ma ne parleremo più là. Ad esempio, per fare un confronto, appunto, giusto perché non siamo per niente competitivi, no. Se confrontiamo i BPM con i generi musicali più contemporanei, si sta parlando veramente di cose un po' così, cioè hanno il valore che hanno. Però, per esempio, la dubstep è calcolata tra i 140 e i 150 BPM. Cioè, siamo sul vivacissimo. Più o meno. Poi l'hip hop, vabbè, l'hip hop tra i 70 e i 110 bpm. Ragazzi, bischelli. La house tra i 120 e i 130. La progressive house tra i 128 e i 140. Ma di che parliamo? Effettivamente si sale un po' con la drum and bass, siamo sui 160-185. L'hardcore, attenzione, si parte dai 160 e si arriva ai 250 bpm, che comunque aumenta, ma insomma siamo lì. Se la gioca con il prestissimo. E poi abbiamo il metal estremo, qui viene definito, che non vorrei sapere bene cos'è, però vabbè, diciamo le varie categorie del metal. Mi fa paura, mi spavento. E siamo sui 200-300 bpm, va bene, sì, qui in effetti un po' ce la giochiamo. E lo speedcore probabilmente è il genere che viene classificato come quello più veloce. Beh, lo dice anche il nome d'altronde, perché si attesta tra i 200 e i 1000 bpm. E qui ci danno un po' le pappe. Però d'altra parte, va bene, comunque. E poi comunque noi ci avvarremo dei punti in più dovuti al fatto che non c'era l'elettronica direi di no. E vedremo. Almeno fino a un certo punto. Ma basta, vi abbiamo già tediato abbastanza, queste erano indicazioni generali. Dovremmo correre un sacco, uno perché la trasmissione sulla velocità quindi. E poi perché abbiamo tantissima musica da farvi ascoltare. Iniziamo con Nikolaj Korsakov. C'ha anche altri nomi, però. Andrevich Rimsky-Korsakov, se vogliamo, ecco, essere esclusivi. Per gli amici Korsakov. Per gli amici corsi. Direi che lui è proprio il primo in tutto, cioè nella lista, ma anche di importanza, perché è l'autore, tra le tantissime altre cose, un giorno faremo una puntata dedicata, perché era veramente un grande, del celeberrimo Volo del Calabrone, che penso che anche veramente quelli che hanno vissuto con la terra nelle orecchie l'hanno sentito, anche è perché capitato. Veramente anche solo nelle pubblicità è insomma usato per mille cose, perché è uno dei brani della musica classica che è rimasto veramente iconico, no? Veramente in senso proprio nel tempo. L'estratto appunto è in realtà il terzo episodio dell'opera La favola dello zar Saltan, composta tra il 1899 e il 1900. Korczak era un altro della banda della tradizione della musica popolare, c'era appunto anche lui, come altri abbiamo citato prima, affondava proprio le radici nello studio, nella ripresa delle fiabe e delle leggende russe. Il protagonista viene trasformato in un insetto, sì. E quindi la composizione è accompagnata da un testo che però non viene quasi mai, è quasi sempre omesso, rendendo il brano facilmente estraibile dal contesto dell'opera per un'esecuzione orchestrale appunto singola, e così viene conosciuto, no? Forse è uno dei primi veramente esempi di musica classica, si trasforma in pop, cioè davvero viene talmente iconizzato e preso a sé. Il brano nella partitura dell'opera non possiede un titolo, in quanto non si tratta di una vera e propria scena, ma di un interludio. Tuttavia viene comunemente identificato come il volo del calabrone, proprio in riferimento a lui che viene trasformato in insetto e al suo volo. È proprio un volo, cioè non è una metafora, è proprio letterale. Cioè, è così, cioè nell'opera lui viene trasformato e vola. Sarebbe un bombo in realtà. Però, infatti sarebbe un bombo, però perché il calabrone, non è un... Però il calabrone in italiano suonava meglio, il volo del bombo in effetti era un po' più... E quindi, come lei mi insegna, insomma, questo è un brano veramente veloce. Sì, tra l'altro è talmente pop che è stato oggetto di competizione per il Guinness dei primati, attenzione, perché nel 2008 il violinista David Garrett è entrato nel Guinness dei primati per averlo eseguito in 1 minuto e 6 secondi. Ecco. Invece nel 2011 in un programma televisivo, vabbè, lo Show the Record, vabbè, suonando uno Stradivari del 1726, tra l'altro, lo eseguì in tempo di 64 secondi. Poi migliorato successivamente, sempre nel 2011, da un altro violinista Ben Lee, in 54 e 24 secondi, fino ad arrivare sempre nel 2011 al chitarrista, perché poi lo vedremo, i brani vengono spesso eseguiti anche da altri strumenti, sì, non gli strumenti per cui erano pensati. Questo pazzo di Vanni Tonon, che è questo chitarrista, è entrato nel Guinness dei primati perché lo ha eseguito a una velocità di 380 bpm, e qui siamo veramente sullo speedcore. Al virtuosismo. Breve chiusa, essendo strutturato su scale cromatiche piuttosto comuni, il volo del calabrone è in realtà un brano abbastanza elementare, no, nella sua struttura compositiva rispetto alla normalità di altri pezzi di musica classica e anche altri pezzi di Korczak stesso. Tuttavia la sua esecuzione richiede estrema, appunto, un'estrema velocità e precisione, quindi è un po' il brano usato per far vedere quanto uno è bravo. E, sì. Utilizzato appunto, come dicevi, da molti musicisti, specialmente nel rock, come dimostrazione di virtuosismo. Sono innumerevoli le versioni per chitarra elettrica, ma ne esistono riproposizioni o variazioni eseguite anche da tromba, basso elettrico, xilofono, violino, vabbè, chiaro, e addirittura da cantanti. Cioè xilofono? Fanno con la voce. Mito. Lo xilofono. Anche con la voce. Del brano esiste una trascrizione per pianoforte di Rachmaninoff, altro che puntava parecchio sul virtuosismo, come abbiamo già visto se avete seguito nelle puntate precedenti. E un'altra, insomma, di un tale George Ziffra. Va bene, insomma, comunque, ecco, questo è il brano su cui fare sfoggio delle proprie abilità. Segnatevelo. Per antonomasia. Segnatevelo. E noi ci ascoltiamo la versione, l'esecuzione di Peter Hahn al piano e Angela Kreutzer al violino, che direi che è una signora esecuzione, perché siamo su 1 minuto e 11, quindi insomma. Abbastanza velocina. E poi torniamo quindi tra pochissimo. Thank you. Eccoci qua. Breve ma intenso. Sì, sì, direi proprio di breve sì. Breve indolore. E beh, intensissimo direi. Il volo del Calabrone, questo era di Korsakov, e proseguiamo con un altro super virtuoso. Qui proprio abbiamo forse sì, il re dei virtuosi. Beh, insomma, se la giocava con Mozart, ma vabbè. Qui stiamo parlando, queste sono lì, proprio due categorie diverse. Allora mi scuso, ma non confondiamo, per favore. No, un conto è vero, se sei una suona il violino, un conto sei se sei il genio del mondo. Sei Dio. Se sei Dio. Scusate, no, io non credo in Dio, ma credo in Mozart. Penso che più o meno. E quindi stiamo parlando di Paganini. Sì. Paganini, Niccolò Paganini, con il suo celeberrimo capriccio numero 5, altro brano direi decisamente virtuosistico e più che altro la bestia nera per la maggior parte dei violinisti. Paganini sì, era un mostro. Sì, Paganini è poi fondamentale perché appunto è stato compositore, anche chitarrista, ma fondamentalmente noto come violinista. In un momento della musica, lui nasce negli anni 80 del Settecento e muore alla metà dell'Ottocento, quindi attraversa proprio quello che è il clou del romanticismo e soprattutto dell'accentramento dell'attenzione che avviene in questo periodo sul musicista, sull'esecutore, che magari è anche compositore, però fondamentalmente è importante. I musicisti cominciano a diventare importanti come compositori, come esecutori. Tutti i musicisti, da Beethoven in poi, sono anche esecutori e vengono conosciuti proprio come esecutori dei pezzi da tutta questa nuova classe, fondamentalmente alla borghesia, dalla nuova alta borghesia. Sarebbe un discorso lungo sulla società post-restaurazione di Vienna, ma veramente diventa un peppone. Quindi, per farvela breve, i musicisti accentrano su di sé, no? Nei salotti, nei piccoli, più che nei teatri, proprio nei milieu. Diventano esecutori per pochi e famosi come esecutori, quello che non era invece stato per tutti i musicisti fino a Mozart. Erano fondamentalmente compositori, ma mai famosi come... Sì, Mozart era divenuto famoso da piccolo come esecutore, ma come scimmia ammaestrata fondamentalmente lui scriveva le opere e poi le faceva eseguire come tutti i compositori. Sì, più un lavoro da commessa che veniva fatto. Sì, ecco, è il romanticismo che accentrando, no, la figura sull'uomo e quindi sul musicista, anche nella musica avviene questo, no? L'artista tormentato, romantico e che oltre a scrivere esegue i propri pezzi e diventa poi virtuoso, non tutti ma in particolare appunto qui si parla di Paganini, che era proprio più famoso come esecutore e come compositore. Sì, assomiglia un po' in maniera un po' diversa, però alle sorti degli Evirati di cui abbiamo parlato mesi fa. Perché che erano un po' le prime star. Che loro sì, erano un po' le scimmie ammaestrate da far girare. Tra l'altro Paganini, appunto, proprio cogliendo quest'onda, diciamo, quest'onda buona, e ha girato un po' tutta l'Europa. Lui in particolare era proprio forse il primo a essere proprio divenuto la celebrità. Il concetto di celebrità nella musica classica nasce con queste figure qui. Prima non c'era, nel senso si sapeva che l'opera era di Mozart, si sapeva che era Bach, ma non è che erano celebrità. Sì, sì, magari avevano degli ammiratori, ma tra i musicisti, cioè sì, che aveva magari Mozart un po' di più perché era un caso un po' a sé, un po' vabbè, lui era Dio, si diceva. Lui era Dio, vabbè, ma più per i posteri in realtà che per i suoi contemporanei. Ma dei fedeli. Perché di fatto la musica stava cambiando, perché la società era cambiata e anche la figura del musicista cambia, no? Ebbene sì, e vi potremo parlare all'infinito di Paganini, magari lo faremo più in là ma in realtà ciascuno di questi brani comporterebbe una puntata a parte, quindi andremo veloce. Oggi guarda proprio... La velocità non è sempre un bene, però in alcuni casi, effettivamente. Sì. E quindi ce l'ascoltiamo, Capriccio per violino solo, il numero 5 in particolare di Niccolò Paganini. Thank you. Che robine. Tanta roba. Che robine la domenica pomeriggio. E, proseguiamo velocissimamente con Bazzini, la Ronde de Lutens, l'opera 25, ovvero la Ridda dei Folletti in italiano, in queste traduzioni un po' bello. Così. La Ridda. La Ridda. Insomma, che vuol tipo dire? La banda, capito? La Ridda. Fa banda. Si fa Ridda. Ma da ora in poi, questa è la parola. Nenia, segnatela per favore. È vero. Neologismo. La brusca, la si segni. Scherzo fantastico per violino con accompagnamento di pianoforte, opera 25, appunto. Bazzini, appunto, è un altro sulla scia di Paganini, chiaramente meno noto ai più, però, appunto, è un compositore violinista italiano, nasce nel 1818 e muore alla fine dell'Ottocento, quindi un po' spostato in avanti rispetto a Paganini, però più o meno, insomma, la figura è quella, appunto, come vi dicevo, nascono queste figure di compositori che però poi sono noti fondamentalmente anche come esecutori e virtuosi, e qui fa proprio capire che i musicisti stanno capendo che fondamentalmente guadagnarsi la pagnotta bisogna andare a giro e eseguire, perché a meno che tu non fossi appunto un grandissimo già riconosciuto di base. E quindi anche questo Bazzini sì, è un altro che possiamo mettere nel cesto, diciamo. Sì, è un altro. Nel grande cesto. Io andrei subito a farvelo sentire, così vi fate già un'idea e possiamo proseguire al pezzo successivo. La Ronde de Lutin è uno scherzo fantastico per violino con accompagnamento di pianoforte nella sua composizione originale. Ora non so qui che versione abbiamo, ma anche opera appunto 25. Abbiamo l'esecuzione di Chloe Hanslip al violino e Caspar Franz al pianoforte. Quindi ce l'ascoltiamo. Caspar, dai. Diamogliene. Thank you. No, vabbè. Ciao. Vabbè. Ciaone. Cioè, pizzicato. È pizzicato fantastico. Dio mio. Pizzicato 5. E questo, e qui abbiamo... vabbè. Abbiamo giocato, o vediamo cosa allora, mettete in campo. Sì, qui voi. Addirittura appunto l'esecutore, l'esecutrice, in questo caso, giusto? No, è sì. Una grande. E l'esecutrice tocca proprio, cioè pizzica le corde. A un certo punto comincia a usare il violino come una chitarra, cioè gli pizzica le corde. Appunto, e qui vabbè, ci sarebbe una citazione incredibile, non so se la posso fare, da qualcuno piace caldo. Ah, pensavo Frau Blücher. No, a qualcuno piace caldo, diciamo, che Jack Lemmon so, nel contrario, dice, ma lei lo pizzica? No, il più delle volte lo picchio. È vero. Scusate, non me sono ricordata. Vabbè, e qui. Come siamo colte. Beh. Allora, arriviamo al momento di Antonio Vivaldi. Ci voleva, tanto doveva venire. Sulle stagioni in particolare, e ci sarebbe stato diverse cose che avremmo potuto farvi ascoltare, ma abbiamo scelto l'inverno, perché io vi devo confessare, mi piace moltissimissimissimo questo brano. È anche il meno noto, forse, delle quattro stagioni, si forse sente quasi sì. Sempre la primavera, no? Perché, infatti, alla puntata, se vi ricordate, i più attenti di voi, la puntata su Fantasia... lì il pezzo dei dinosauri di Fantasia, della nascita del mondo, insomma, dei dinosauri, sembra fosse la primavera. Sì, anche secondo me. Comunque, no, ora l'inverno, anche perché ci avviciniamo tra un po', e quindi in stagione... Poi perché a noi il sole non ci piace, no. Ci fa male. No, assolutamente. Un po' così. E quindi l'inverno, ma noi vi facciamo sentire, non avendo tempo, perché appunto dobbiamo essere veloci, il primo movimento che è Allegro non molto, quindi lo sentirete, non è... insomma, non ha l'andamento che avevano questi brani che vi abbiamo fatto ascoltare ora, ma tocca comunque delle vette notevoli. Anche Vivaldi, sempre per inserirsi in questa scia, appunto, era compositore e esecutore a volte anche, e più noto come compositore sicuramente, però insomma, ecco, è un altro virtuoso. Le quattro stagioni è il titolo con cui sono noti i primi quattro concerti solisti per violino, appunto, dell'opera, che vengono però, non tutti sanno che viene in realtà dall'opera Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Questo è proprio il titolo dell'opera, quindi le quattro stagioni sono in realtà un modo che si usa per successivo. Definirli, ma non si chiama così. E quindi, insomma, ecco, questo era proprio il titolo originale. Il cimento, appunto, perché è la prova, no? Cioè, è tutto nel titolo, cioè il cimento dell'armonia, cioè la prova da sostenere, probabilmente, cioè proprio è un omen per i musicisti che dovranno eseguirlo, perché insomma sono particolarmente difficili e richiedono una grande abilità. E certo, comunque guarda, ti abbiamo selezionata qui al Wombat tra tanti perché riesci a dire parole come omen, sì, in radio. Sì. Poche cose so fare nella vita. No, ma veramente poche. Cioè, voi non potete saperlo, ma insomma ha dovuto subire molte prove per essere scelta tra le mille. Insomma. Esatto. Vabbè. D'altronde. Ho vinto. Pensa a te, se perdevo. Culo. Pensa se perdevo, insomma, cioè, mi davano impasto. Bene. Ebbene, quindi ascoltiamoci il primo movimento dell'inverno di Antonio Vivaldi. Thank you. bello. E vabbè. Giustamente mi dicevi di dire l'anno 1727, sì, che ce l'eravamo scordati. Quindi siamo un po' prima, insomma, ecco. Un po', sì, ancora. Non stiamo andando assolutamente in ordine cronologico. Siamo un po' indietro. Come sempre, direi. Molto bello. E, veniamo a Liz, Transcendental Etude. Ma chissà come lo sto leggendo. Vabbè, 12 mezzo in inglese, studi d'esecuzione mezzo... trascendentale, sì, diciamo così. In giapponese. Sì, comunque lo studio numero 8, Wild Yacht detto anche. E Liz fu uno dei grandi virtuosi del pianoforte ottocenteschi. Sì, lui è proprio uno dei massimi esponenti. Si parla appunto della qui, insomma, questa opera in particolare del 1826, dal 1826 al 1851. La prima era del 1881 a Budapest. E sì, chiaro, Liz appunto è proprio forse quello che si ricorda di più come virtuoso compositore, ma anche proprio esecutore dei propri pezzi, in quello che è stato proprio il boom, il momento, no? Clou della, sì, tra l'altro, della celebrità di certi musicisti. Infatti era anche molto amico e legato a Chopin, Schumann. Eh beh sì, era la Ridda. Era la Ridda. Lo volevo dire. Era la Ridda e tra l'altro, non lo volevo dire, ma era anche suocero di Wagner. Eh sì, perché era... sposato con la figlia Cosima. Esatto. Che gossip. Era sposato con la figlia di Wagner. La figlia del... Sì, sì, sì. Wikipedia dice così. E quindi, insomma, ecco, è che c'aveva proprio... E tra l'altro era anche un francescano, cioè a un certo punto si è fatto monaco. Era un po' strano. Così. Non a caso, ora non vorrei fare citazioni più, però... Listomania, esatto. Film che parla appunto di che è un film del 75, ma il termine indica anche la listomania, cioè questa frenesia, questo l'amore e anche un modo, la listomania, di eseguire proprio alla maniera di Liszt. Quindi, insomma, Che fa ridere appunto se confrontata col fatto che era francescano, appunto, e no, oltretutto fu anche abate nella cattedrale di Albano Laziale a Roma. Cioè, quindi proprio l'ha buttata in caciara a un certo punto, mi sa. Volevo così fare riferimenti a nostre conoscenze. E sì. Listomania è un bellissimo film, per chi non l'ha visto, scoprivatelo, del 75 del grande Ken Russell. Che amava molto. Io non l'ho assolutamente visto, lo vedrò. Listomania, forte. Ascoltiamoci quindi lo studio numero 8 in Do minore. Thank you. Ma che finalone. Vabbè, oggi proprio, cioè, ci siamo un po', abbiamo un po' esagerato forse. Oggi così, anche noi virtuosismi. Comunque. Sì, diciamo che oggi non è tanto il ripiglino della domenica. Beh, forse sì. Vabbè, oggi siamo in competizione con quelli del piano di sopra, nel senso di con quelli prima. Esatto, no? Esatto. Noi ci è scattato un po', come non siamo per niente competitivi, no, appunto, no, per niente. No. Ci è scattata subito, capito, il... sì, certo, in effetti è vero, non abbiamo lanciato il guanto della sfida anche a loro. Vabbè, loro era implicito. Fate Nabat, va, fateli. Provaci. quindi adesso, vabbè, adesso, vabbè, ragazzi, adesso si entra in chiesa, ci si inginocchia nella chiesa della musica e dopo l'abate di Albano Laziale. Albano Laziale, non si è capito, ma ha fatto a finirli, comunque lo scopriremo, magari qualcuno sul luogo ci dà più informazioni. E si parla di Mozart, perché cioè, non parli di Mozart. Lui esso, egli, che di roba veloce se ne intendeva, perché fondamentalmente, nonostante il suo, appunto, il suo periodo non sia il romanticismo, ma sia appunto subito precedente al romanticismo, non sto a ridire niente su Mozart, perché, cioè, mi rifiuto di credere che si debba rispiegare, ridire, no, ecco, di spiegare la natura stessa della musica classica. Però se ne intendeva, perché molte delle sue, insomma, delle sue composizioni, sia opere sia appunto concerti, scherzi, piccole cose, insomma, cose più brevi, sono molte presentano, è famoso anche per essere un compositore veloce, che componeva sia veloce nel comporre, perché era un genio, sia proprio con notazioni di velocità spesso, no? Ebbene sì. Quindi per il suo periodo era sicuramente un, come sempre ovviamente, un'avanguardia, e compose soprattutto molte, no? Cioè, è molto denso Mozart, tanta roba, cioè è tanta veramente. Ce n'è parecchio. Sì, sì, Mozart è sempre molto, e dovete anche, appunto, come si parlava prima del contestualizzare il periodo, perché un conto era Liszt, insomma, Rachmaninoff, o tutti quelli che sono venuti poi dall'Ottocento in poi, che si muovevano su strumenti piuttosto moderni, perché comunque c'era già il pianoforte a coda insomma, strumenti, no, non quelli magari non, ecco, perfetti come adesso, però insomma sicuramente erano avvantaggiati. Dovete pensare che uno come Mozart e quelli che eseguivano Mozart e lui che scriveva le musiche lavorava sul clavicembalo, quindi comunque su strumenti veramente cioè avanzati per l'epoca, ma cioè preistoria della costruzione musicale, quindi che insomma, comunque avvenne sì, però. Sì, no, per l'epoca sì, però dovete pensare, ancora maggiormente bravi bisognava essere sì, per eseguire. In più Mozart non scriveva mai pezzi per virtuoso, cioè perché fossero eseguiti con virtuosismo, cioè col concetto di virtuosismo, perché ancora non era così definito, così cristallino, non era una qualità come poi diventò nel romanticismo. Certo, lui era un virtuoso, lo era fin da piccolo, che era un genio, però ecco, quindi dovete pensare a questo. Sì. La sinfonia numero 40, quindi, dicevamo. Sinfonia numero 40 in sol minore, detta anche per gli amici la K550. Composta a Vienna nel luglio del 1788, quindi insomma anche nemmeno troppo... piuttosto ultima come composizione. Sì, abbiamo scelto questa, appunto, potevamo sceglierne diverse altre. In particolare vi facciamo sentire il quarto movimento, che come indicazione di andamento ha allegro assai, e quindi ci sembrava appropriata, e comunque è bellissima. Vabbè, quindi, che si deve dire? È il nostro Vate. Mozart morirà nel 1791, quindi ecco, questa è una delle, insomma, piuttosto tarda. Siamo verso la fine. Sì. Parlare. Sentitevela, va? Thank you. insomma, ecco. Capito? Robetta. Questa lui la scriveva mentre dormiva, probabilmente. Ma... sì, anche secondo me. Insomma. Chiudiamo questo capitolo, va? E passiamo a un altro minore della storia della musica, ovvero Chopin. Sì, insomma, un altro sciagurato proprio. Un poveretto. Un poveretto. Friedrich Chopin, e in particolare ci ascoltiamo lo studio numero 4 tratto dall'opera 10, appunto un'opera di studi. Che Chopin compie, lo vedremo, studi veramente poco banali e molto difficili, alcuni dei quali, soprattutto questo che vi stiamo facendo per ascoltare, molto veloce e c'è tutta una serie di catene di semicrome che vanno suonate con un'esecuzione molto limpida, perché devono essere ascoltate, cioè devono essere distinte l'una dall'altra. Quindi non è assolutamente semplice, altrimenti viene fuori un gran buglione. Non mangiarsele, come si dice. Beh, la caratteristica di Chopin è proprio, non è un compositore noto per la velocità, no? Però sicuramente, come diceva la Mari, per lui era importante, sacrificava forse a volte un po' alla velocità, alla pienezza, no? A questa esecuzione cristallina, cioè tutto si doveva sentire molto, non bisognava mangiarselo per essere, quindi ogni nota era importante, veloce ma anche molto chiaro. E era polacco, io non me lo ricordo mai, penso sempre che sia tedesco o francese, sì. Era polacco ed era forse il massimo esponente di quella ridda che si diceva prima di compositori virtuosi, no? Lui è proprio la figura, Chopin è la figura romantica per eccellenza, e fondamentalmente scrisse quasi solo per pianoforte, credo, o solo o quasi solo, insomma. Quindi ecco, lui era proprio, no, la figura massima del compositore esecutore anche. Quindi. Sì, tra l'altro c'è una serie di difficoltà in questo pezzo che non sono soltanto la velocità e appunto questa serie di semicrome, ma anche una diteggiatura un po' insolita, un po' strana, moltissime alterazioni che insomma... non direi appesantiscono, però rendono ulteriormente difficile l'esecuzione. E, beh, sì, insomma, sicuramente è uno studio e quindi è un qualcosa che serve a apprendere l'arte del pianoforte, però è anche ovviamente qualcosa di più, come molti studi di grandi compositori che ci hanno fatto arrivare fino a noi della musica bellissima sotto forma di studi, che insomma averne studi, ti voglio vedere a fare questa roba, magari qui, studiare tutti i giorni cose così. Infatti. E quindi ce l'ascoltiamo? Sì, l'anno di composizione è tra il 1829 e il 1832. Esatto, ovviamente si tratta, appunto, siccome parlavamo prima delle alterazioni, lo studio è il numero 4 ed è in do diesis, appunto, per l'appunto minore. Thank you. ecco qua. Eccoci. Chopin, stavamo mangiando delle patatine. Esatto. E quindi ci avete sgamato. È stato troppo veloce questo pezzo. Troppo veloce. Comunque oggi siamo come il coniglio d'Alice. È tardi ormai. La Mari c'ha proprio l'orologio nel panciotto. Sì, sì. E non sì. fa che dire è tardi presto. Andiamo, andiamo. È tardi ormai. Bene, sua maestade. Quindi Igor. Igor Fedorovich Stravinsky, uno dei miei idoli personali. Sì, ovvio, insomma, il fatto che sia uno dei miei idoli personali, dalla misura della mia nerditudine, è stato celeberrimo compositore russo, naturalizzato francese e alla fine anche statunitense, ma questa è un'altra storia. E quindi muore addirittura nel 71, quindi si parla, qui siamo proprio già nel Novecento, quindi dalla prima, insomma, muore nella, insomma, poco dopo la metà del Novecento, quindi ecco, si sta parlando di un salto in avanti abbastanza importante. Abbiamo nominato Stravinsky un sacco di volte perché è fondamentale nella storia della musica classica, soprattutto in quel passaggio che si dice spesso tra la musica classica romantica e tutto quello che viene dopo. Sì, tra l'altro era, giusto per allacciarci all'inizio della trasmissione, era allievo di Korsakov. Beh sì, certo, prosegue all'inizio almeno, poi dopo allievo di composizione, proseguirà tra l'altro quella che è poi la tradizione, no, russa, proprio sulla, anche di, insomma, di una musica che viene dallo studio delle tradizioni popolari, e quel discorso che si faceva per Bartok vale un po' anche per Stravinsky. Sì, ed è in questo momento, in questo periodo in cui lui era molto giovane, perché a 23 anni conosce Korsakov, diventa suo allievo, ed è in quel periodo che compone alcune sue sinfonie, suite molto famose, tra cui Le Faune e la Bergère, e la sinfonia Mi bemolle, e anche due lavori sinfonici nel 1908, Fuochi d'artificio e Scherzo fantastico. Uno di questi ce lo ascoltiamo adesso, perché ci ascoltiamo proprio Fuoco d'artificio. C'era anche un altro che era scritto insieme a Korsakov, un canto funebre, sempre di quel periodo, che però è andato perduto, ahimè. Debussy era un suo grande ammiratore, una volta faremo una puntata su Stravinsky in generale, e lui divenne famoso ai più con i balletti, ovviamente, L'Uccello di Fuoco del 1910, Petrushka del 1911 e La Sagra della Primavera del 1913, chiaramente, insomma, queste sono le sue opere così più famose, celeberrime, anche perché riportate poi in vita sempre anche dai balletti. Però lo caratterizza proprio questo dinamismo, questo fuoco, no? Che si avvicina poi, lo porterà, insomma, fa da ponte poi per la musica che verrà più classica, ma un po' più contemporanea a noi, insomma. Si sente già proprio nell'andare questa modernità, in un certo senso. Si parla ovviamente di un po' più avanti. Vita molto lunga, perché nacque nel 1882, abbastanza lunga, dal 1882 morì nel 71, quindi insomma abbastanza longevo, e quindi attraversa proprio in maniera incredibile un periodo che cambia totalmente la storia della musica e la storia della musica classica. Eh sì. E anche qui potremmo aprire capitoli, ma non ne abbiamo il tempo. Il mio orologio da taschino mi segnala che dobbiamo sbrigarci. E quindi Fuoco d'artificio di Stravinsky. Thank you. Ecco, questo era il fuoco d'artificio di Stravinsky e Igor, appunto. Il vecchio Igor. E quindi proseguiamo tosto con Felix Mendelssohn. Oggi facciamo praticamente un bignami. Oggi è andata così. E poi dice: siete troppo antologiche, una su uno. Allora oggi. Oggi voglio oggi, dire. Oggi ci siamo sdate, via. Felix Mendelssohn, e in particolare ci ascoltiamo il quarto movimento, detto Saltarello Presto. Quarto movimento della Sinfonia numero 4 in La Maggiore, opera 90, comunemente conosciuta con il nome di Italiana. E perché a noi ci piace il bel paese. Noi siamo nazionalisti, famosi per essere nazionalisti. Come tutti sanno. Mendelssohn Bartholdy è stato compositore, direttore e pianista e organista. Lui era proprio, quindi anche lui, un virtuoso pieno periodo romantico, come dicevamo, non a caso, vedete che sono tutti quel periodo lì, non è un caso. Appunto, lui morì nel 1847, quindi insomma proprio morì. Sì, questa qui è, infatti questa sinfonia è di pochi anni prima, perché è del 1830. E anche lui era noto come compositore, lui molto anche come compositore effettivamente, però anche come esecutore, appunto, anche organista, quindi non solo pianista, non solo... Quindi, beh, sì, uno dei veramente, forse dei meno conosciuti di tutto quel periodo, perché appunto era più conosciuto Chopin, Liszt, erano più, forse più conosciuti da chi non è esperto in musica classica, però, insomma, Mendelssohn, ecco, poi anche lui avrebbe cose da dire. Insomma, indagarlo, perché è stato veramente... un grande, insomma. Sì, questo il quarto movimento che ci ascoltiamo, perché la sinfonia tutta per intero più o meno arriva da un'ispirazione che gli venne dalle città italiane che lui aveva visitato, come sappiamo. Classico tour romantico. Sì, esatto. Grandi fan del nostro bel paese, i vari inglesi, tedeschi, francesi. Accidenti a Goethe, maledetto. È andata così. E qui in particolare il quarto movimento, che è in chiave minore, perché nonostante la sinfonia sia maggiore, in realtà questo movimento qui è in chiave minore. E è un po' un riferimento a il saltarello e la tarantella che si dice Mendelssohn avesse imparato ad apprezzare a Roma e a Napoli. Ma proprio terrorato. Lo riconoscerete sicuramente, sì, proprio il saltarello. La vabbè. Tarantella rifatta da un tedesco è un po' particolare. Sciacquata a Berlino deve essere particolare. E beh, ascoltatevela, va. Thank you. Felix Mendelssohn, sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90. E veloci, arriviamo a Gheorghi Ligeti o Ligeti. Io non ho mai capito se dice Ligeti o Ligeti. C'è chi lo dice in una maniera, c'è chi lo dice in un'altra. Tu, vabbè, comunque Gheorghi. Gheorghi è più semplice. E ci andiamo ad ascoltare l'étude tratto dall'étude for piano, premier livre, il primo dei 18 libro, sì, e in particolare il primo di questi studi, che si intitola Désordre, ovvero disordine. Il discorso sugli studi abbiamo già fatto, quindi tenete il passo. E questo compositore ungherese, ecco, qui siamo proprio avanti, nel senso, siamo arrivati... Questi studi sono composti tra il 1985 e il 2001, lui muore nel 2006, lui attraversa proprio tutto il Novecento, quindi è un compositore fondamentale, l'abbiamo nominato spesso nella puntata di Bartok, perché come Bartok lui era un po' più giovane, però insomma attraversa proprio il secolo breve, appunto muore nel 2006, quindi. E questi appunto sono considerati tra i suoi maggiori successi, questi studi, e seguono la linea appunto degli studi romantici di pianoforte, però chiaramente con nuove idee, nuovi strumenti tecnici a disposizione, e appunto anche una musica che è cambiata fortemente rispetto al romanticismo. E questo è quanto. Sì, tra l'altro in questi studi pare che questi studi nascessero da varie fonti che evidentemente avevano colpito moltissimo il nostro Gheorghi. Tra cui poliritmi africani, ovviamente il già citato Bartok, e anche quello che ci ascolteremo tra breve, che è con Lon Nankaro. Io ho delle difficoltà a leggere questo nome, anche questo, con Lon Nankaro, che è un compositore non conosciutissimo, di cui ci andremo a ascoltare dopo il prossimo pezzo, ma anche Ligeti aveva preso pure da Bill Evans, quindi pianista jazz, quindi insomma pescava un po' dove... Sì, comunque è un nostro contemporaneo. Sì, faceva giustamente influenzare. Insomma, la musica del Novecento lo influenza inevitabilmente. Insomma. E questo quindi è Désordre, è il primo studio del primo libro degli studi appunto di Ligeti. Thank you. Ecco qua. Ecco qua. E sì, a microfoni spenti ragionavamo su quanto la musica contemporanea sia effettivamente più difficile da digerire della, non semplice, ma insomma, della musica classica fino all'Ottocento, chiaramente. Eh beh, sì. Poi, qui si fa veramente un paragone con l'arte, cioè chiaramente finché l'arte è figurativa, no? Finché l'arte è chiaro che anche senza grossi strumenti si può percepire, quando l'arte comincia a essere non figurativa, ci vogliono, per quanto se ne possa percepire la bellezza, ci vogliono comunque dei grossi strumenti per comprenderla, soprattutto verso la fine del Novecento. O una, anche una buona predisposizione, perché non è detto. Sì, buona predisposizione, sensibilità, però insomma, se non c'hai grossi cioè un po' di strumenti è anche difficile capire. Ti servono, certo. Arriviamo a Conlon Nankaro, che citavamo prima. Nankaro, visto che era... Chissà. Che noi si... Cioè noi si fa il conto alla zainista, alla russa. Noi tutto alla russa. Sì, tutto noi è Conlon, dai, è tipo sì, il colon. Invece questo è Nankaro. Sì, in effetti era americano, quindi poraccio, sarà Nankaro. Nankaro. Sì. E Study for Player Piano numero 1, ci ascoltiamo il primo dei famosi studi per player piano. Anche lui dalla seconda metà del Novecento. Sì, è un altro contemporaneo. È in realtà Nankaro, uno dei primi... Nankaro, scusate. Nankaro. Non ce la posso fare. Ma oggi è così. È stato uno dei primi compositori a usare alcuni strumenti musicali assolutamente non usuali come gli automi meccanici. Anche perché lo sentiremo, come si diceva fra l'altro all'inizio, qui si va in un ambito dove la composizione avviene per dei limiti che non sono umani, cioè avviene con una tale velocità, una tale, cioè, vuole una tale, un tale virtuosismo, una tale velocità di esecuzione e quant'altro che umanamente sarebbe proprio impossibile. Ed è così anche perché in realtà appunto è musica che non è stata scritta per mani umane ma per un pianoforte meccanico. E qui si aprirebbe una parentesi, sì, di quelle giganti, sì, sulla... Io mi ci butterei ovviamente, sì, a capofitto alla Dick proprio, però, però lasciamo perdere. Non è il caso non è il momento, perché come lei ben sa è tardi e tardi. È tardi e tardi. Vi posso però soltanto in tre righe dire che il, appunto, il player piano è quello che in italiano si dice la pianola. La vecchia pianola meccanica. Sì, che non è quella della Buontempi, no. Quella del Far West, paradossalmente. È quella, è quella, il pianoforte meccanico, che è un apparecchio musicale che con dei meccanismi o pneumatici o elettromeccanici, dipende, e anche dal periodo ovviamente, suona in maniera automatica. Vengono questi meccanismi ovviamente suonano attraverso una programmazione, programmazione di schede perforate di carta oppure un po' più raramente di metallo. È uno strumento interessantissimo e che sentirete, ha un suono veramente bellissimo. Conlon Nankaro in realtà visse per gran parte della vita in un discreto isolamento, abbastanza sconosciuto, in Messico. Ha vissuto quasi tutto il tempo in Messico. Naturalizzato in Messico ed è morto a Città del Messico. Quindi. Sì, ed è stato scoperto nel 1980, quindi relativamente tardi. Poi in realtà lui aveva fatto cose molto più interessanti anche prima. Se però, siete interessati a vedere i suoi strumenti, al bellissimo museo a Parigi, c'è un bellissimo museo sugli strumenti musicali che è in zona La Villette, è proprio la Cité de la Musique. All'interno c'è la più grande collezione, credo, europea di strumenti musicali, ed è molto bella perché è messa in ordine cronologico proprio dalla preistoria ad oggi, e si può sentire ogni teca un esempio, un ascolto, per far capire, insomma, divisa per paesi. È molto molto molto bella, molto esaustiva, e ci sono appunto, si arriva, quando si arriva al Novecento, ci sono anche degli esempi delle sue costruzioni, insomma, non so se le faceva proprio lui, le faceva fare, ma comunque insomma al museo ci sono. Ebbene, questo è lo studio numero uno, secondo me veramente veramente bello, quindi ascoltatevelo bene. Thank you. qui bordate anche alla musica elettronica, gliene abbiamo dato perché siamo beccatevi delle questa. Signore. Basta, abbiamo l'ultimo pezzo di oggi e l'ultimo pezzo per chiudere in bellezza, direi, beh, non che prima avessimo dato delle cose modeste, ma finiamo con Castelnuovo Tedesco, eseguito da Andrea Segovia e in particolare Il Capriccio Diabolico, opera 85. Anche qui potremmo parlare lunghissimamente sia di Castelnuovo Tedesco che di Segovia, cosa che probabilmente faremo, ma non oggi. Tra l'altro Castelnuovo Tedesco, gloria fiorentina, esule, grazie alle leggi razziali, ma vabbè, lì insomma, appunto, si potrebbe aprire una lunghissima parentesi. Parliamo invece del Capriccio in particolare, perché Il Capriccio Diabolico fu composto da Castelnuovo Tedesco proprio per Segovia, cioè Segovia l'aveva richiesto, gli aveva richiesto una composizione e Castelnuovo Tedesco compose questo capriccio per lui in omaggio palese e proprio detto a Paganini, a Niccolò Paganini di cui sopra e al suo capriccio ovviamente. Tra l'altro un'opera meno nota di Paganini, sempre anch'essa chiamata Capriccio, era stata composta dallo stesso Paganini per chitarra, quindi qui siamo di nuovo sulla chitarra e l'omaggio è un po' doppio. In realtà poi alla fine, un bellissimo pezzo, lo sentirete, anche strafamoso, non velocissimissimo, meno veloce degli altri, ma comunque molto difficile e complesso. In ogni caso, tra i due, tra Castelnuovo Tedesco e Segovia, c'era una grossa intesa, erano molto amici, ma in realtà il rapporto piano piano si sfilacciò, probabilmente pare anche per quest'opera, a causa di quest'opera, perché a Segovia quest'opera non gli è piaciuta. Ma è una gioia, però. Gli è piaciuta. T'ho chiesto un regalo, e certo se me lo fai brutto, però allora che vuol dire. Già t'ho chiesto il regalo, come non lo mi fai pensi? Brutto. Vabbè. E quindi è andata un po' così. Va. Noi vi lasciamo con questo ascolto che è un po' lungo, dura 9 minuti, e con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre intorno alle 18, sempre su Radio Wombat. Ciao ciao! Ciao a tutti! Thank you.